Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, un altro appuntamento speciale con le interviste di Radio Tube. Oggi con noi un gruppo che ha fatto la storia del rap italiano. Studi di Radio 24, Milano. Un periodo di stop dopo aver perso la voce e l'anima di Primo Brown, scomparso 3 anni fa. Tornano con lo spirito che suona, i Corveleno. Posso fare subito una domanda un po' stupidona, ma il nome Corveleno da dove viene? Questa è una bella domanda. Viene dagli anni 90, come i ragazzi esatto, che stanno in regia. Che loro sono degli anni 90, adesso che loro sono nati negli anni 90. Ed è frutto un po' del contesto musicale e culturale che c'era in quel periodo, no? A Roma il termine Corveleno normalmente viene frainteso anche, ma tende ad essere applicato a quelle cose che hanno una passione irrefrenabile, per cui non esiste antidoto. Quindi chi sa Corveleno ha veramente più forza, più voglia di dire quello che ha. È okay. Lì, è l'impeto. Ok, Corveleno. Sto Corveleno. Sto Corveleno, perfetto, così l'abbiamo esportata anche fuori Roma. Ragazzi, voi siete in due e tornate dopo un periodo di silenzio nel quale avete dovuto, lo dico subito così ci togliamo il pensiero di dire è importante dirlo. Io ci tengo molto, nel quale avete dovuto affrontare la perdita di un amico, di un grandissimo artista che era Primo Brown. Sì, grande. Come si fa? Come si fa? Si fa perché tutto quello che è stato il percorso umano, musicale, ma fondamentalmente di amicizia, no? Che ci ha legato nell'arco di tutti questi anni, perché non è, lo spirito che suona non è il primo album che abbiamo fatto, come dicevi tu, ma c'è tutto un prequel prima. Da un certo punto di vista, per tutto quello che ha visto mettere sul banco nell'arco degli anni, non poteva essere lasciato così a metà. Di conseguenza, dopo la perdita enorme di Primo David, che prima di essere membro del gruppo appunto era il nostro migliore amico, fraterno, noi abbiamo detto, cioè, abbiamo quelle canzoni che le abbiamo iniziate, è giusto o non è giusto portarle a termine? E questo è stato il primo interrogativo che ci siamo posti. E dopo aver titubato, magari ponderato un pochino, no? La cosa, perché è un compito gravoso, interfacciarsi, un compito importante, sì, serviva interfacciarsi anche con Mauro Belardi, che è il padre. Abbiamo fatto 2 o 3 provini, uno dei quali era con Giuliano San Giorgi per il pezzo Niente in Cambio, e abbiamo fatto sentire, ha detto sì, secondo me è giusto che portate avanti questo discorso. E beh, che un padre vi sia stato vicino non è poco. Beh, per noi era una condizione necessaria, no? Farlo sentire al papà e sentire che cosa ne pensasse lui. Una volta poi avuto l'ok, ci siamo rimessi l'elmetto e siamo. Ma poi dell'elmetto parlate nel disco. Sì, com'è sta storia dell'elmetto? L'elmetto è la guerra personale che uno porta avanti, no? Lo spirito che suona. Ciao, sono un foglio bianco. Fermo sopra il tuo banco. E posso portare il mondo dalla tua stanza fino sul palco. E se tu puoi toccare il fondo per poi tornare abbastanza in alto, qua c'è tutta la vita intorno. E allora io ciao, sono un foglio bianco. Io sono un foglio bianco e mi scrivo quando mi passi accanto. E mi sa che non ho mai nessun rimpianto, tranne quelli di chi scrive, che alla fine uno vale l'altro. Se li vedi sti cantanti, sti poeti, farsi belli e sventolarmi come il primo dei rimedi, con le armi a protestare i divieti. Ma se è la tua guerra, con me spari più forte, baby. Io sono un foglio bianco e a volte mi sporcano col loro fango. A volte qualcuno mi sta disegnando e a volte così sono, così rimango. Sapere tutto non mi consola. Vedere il brutto di ogni persona. Ma il primo della classe, l'ultimo banco, restano gli stessi su un foglio bianco. Abbiamo parlato di amicizia, bianco. È pieno di amici questo disco? Cioè affollatissimo, sì. Non c'era più posto e dopo? E tanti non siamo riusciti a includerli nel lavoro. Perché poi a un certo punto io ho detto stop, fermi tutti. Sì, perché della produzione si è occupato lui. Certo. A un certo punto metti un punto o se no non finisci più. Io approfitto per dare la colpa a te. te. Sì. Tutti quelli che tutti si sono gli amici che, possiamo dire, tutti gli amici che non sono sul disco è colpa mia. E quindi prendetevela con me. Ma detto, ci sono tantissimi. Tanto di canzoni ce n'è molte, di dischi se ne faranno altri. Nel prossimo giro. Bravo. Esatto, prossimo, però intanto c'è questo, poi vediamo che cosa succede dopo. Danno, Coez, Jimmy Tights, Mezzo Sangue, Johnny Marsiglia, Madman Marrakesh, Roy Paci, Adriano Viterbini, dei Bud Spencer Blues Explosion e Giuliano San Giorgi, che io vi assicuro non mi aspettavo però. Certo. Ma lui è un amico, cioè un po' come tutti loro, no? Però con Giuliano c'è forse... Ma da quando sono usciti con Negramaro a Sanremo, noi abbiamo cominciato a incontrarci, c'era sempre stata questa cosa con Giuliano: ah, ma facciamo una canzone? Ma sì, sì, quando c'è la canzone giusta lo facciamo, non concedono mai i tempi. E poi alla fine è venuto. Ed è stata una cosa molto particolare che a me piacerebbe raccontare, perché... in genere accenniamo brevemente, cioè lui è venuto, si è presentato con Ciccio e le Mani, ex le Mani, adesso suona con Tiro Mancino, e sono venuti a prendermi in macchina e siamo andati in studio e doveva fare una canzone. Poi lui ha registrato la canzone scrivendola sul momento ed è venuta una hit, perché non possiamo far uscire tutti i pezzi come singoli, ma quello è un singolo e dà il titolo al disco, Lo Spirito Che Suona. E poi ha fatto: ma ragazzi, che cosa avete fatto? E qui te lo racconta a squarta come è andata avanti. Mi ha fatto suonare ti faccio sentire un altro pezzo. Lui si è bloccato, mi ha guardato: fermati, adesso ci devo essere anche su questo pezzo. È stata una cosa di un'energia tale, non mi aspettavo neanche io un coinvolgimento così. E quindi anche lì è entrato in studio, in 10 minuti ha scritto e lì ho avuto proprio la misura di quanto fosse bravo Giuliano. Tecnicamente è fortissimo, un cantante enorme. Ma infatti dal vivo, cioè, questo si vede sempre. La cosa, dicevo appunto, dello Spirito Che Suona, che è una bomba come canzone, lui ha registrato poi su Niente in Cambio, che già doveva uscire come singolo. Lui ha fatto: oh, voglio registrare qua sopra perché lo sento, devo dire qualcosa qua. E ha fatto: sì Giuliano, tu puoi registrare, ma questo uscirà come singolo, cioè lo sai poi, no? Ha fatto: ah, non importa, perché quando tu c'hai qualcosa dentro che vuoi mettere a fuoco in una canzone lo devi fare, non ti puoi fermare. E quindi noi siamo andati avanti, no, così. Anche perché se esce come singolo è un featuring importante, quindi un artista deve sapere. No, ma no, lui ha detto: no, andate. Esattamente come noi, non gli interessava di tutto il dietro, era il momento, era quello di scrivere, di fare una canzone, e si è fatta, punto. Ed ha incarnato proprio lo spirito del disco, che era... più su dare qualcosa a una figura, perché il disco di Corveleno, sì, certo, ma appunto come dicevi prima, il goal, la missione principale era quella di dare lustro più possibile a Primo, e speriamo di esserci riusciti. Sono nei buchi più sporchi, più crudi, cioè in mezzo ai rifiuti di città in città, poi suono sui palchi più grossi, più caldi, con tutti i cantanti del club. Stavi comodo col rap, mo' è Bohemian Rhapsody, invidia ammazzati, il tuo odio adolescente sul mio odio cazzo, visse passomi, levi l'aria coi tuoi cazzo di social, un altro puro che si sporca con la merda che incrocia, sti cazzi dei problemi che te inventi tu, tutto il gioco loro, non c'è gioco più, sono un toro dei Chicago Bulls, stronzi che si affidano alla fortuna, che all'età mia c'hanno i crani abbassati, ma il mio domani ancora profuma. Mi spiace che non puoi scriverti per camminare col mento alto, ma all'ospedale degli uomini liberi la crisi ha chiuso anche il loro reparto. Non c'è patto che tu possa propormi, perché già l'ho fatto, adesso penso ai miei giorni. Quindi quando il domani verrà, il mio domani sarà, suono coi ragazzi che muovono il culo, che spostano il culo di città in città. Io sono Sig col flow d'acciaio, ma questi qui non hanno niente in cambio. Io sono Sig col flow d'acciaio, ma questi qui non danno niente in cambio. Giorno che non c'è più un sogno, vi prego non svegliatemi. La prima traccia del disco parla del rap così come è cominciato. Sì. E adesso come lo, cioè, voi che fate questa cosa da 20 più anni sì. Com'è? Cosa guardate quando vedete quello che è successo adesso? Beh, per quello che riguarda la musica contemporanea, la musica contemporanea fa parte di quello che siamo. Facendo musica non abbiamo mai scelto di prendere un'era e rappresentare quella. Siamo comunque grossi, grandissimi. estimatori della, del rap che esce oggi da Travis Scott, da Kendrick Lamar. Ci piace, ci sono delle cose più belle, più brutte, ma con questo, ma come tutte sempre le epoche, no? Una cosa bella per quanto mi riguarda dell'epoca ora attuale in Italia è che c'è business dietro a questa, è una cosa importante perché muove un sacco di fattori. Beh, anche perché è più ragionato, no? Cioè, quando, cosa... quando eravamo più piccoli noi, il business nella musica rap era sempre visto un po' come il demonio. Per, certo, noi, per noi no. Per anzi, noi invece se uno sempre... poi faceva carriera era visto con grandissima diffidenza. Per noi è sempre stato il contrario. Per noi invece portare la musica, la nostra musica, con la nostra attitudine a più gente possibile nei palchi più grandi era la missione. È l'unico obiettivo che ci siamo dati. Però sempre con un'enorme e costante dose di incoscienza. Perché fondamentalmente ci può essere tutto... tutta la struttura che muove i fili, gli algoritmi, però quando abbiamo iniziato a fare musica e io un po' da fratello maggiore, perché non mi sento così più grande di altri, raccomando sempre ai miei amici più giovani di mantenere l'incoscienza a livelli massicci, perché per fare musica e fare tutto quello che non è fisicamente tangibile serve quello. Altrimenti sei troppo in controllo, e se sei troppo in controllo non esce fuori nulla, esce fuori, diciamo, la macchina, e la macchina non deve essere l'artista, non deve fare la musica. La macchina serve magari a promuovere quello che c'è e farlo bene, ma se non sei matto, che ci metti veramente tutto te stesso dentro, non viene fuori. Tornare a casa non mi va, ho la testa in un groviglio d'erba, il peso di questa cartella, in cuffia una cartella non mi fa pensare, sognando il nome scritto grande ovunque vada, stai con me comunque vada, invece ognuno per la propria strada. Amore reggi mille chiavi, il cellulare reggi l'ansia che mi sale, dammi un bacio, salgo per suonare, che non mi serve di cantare ma d'urlare contro, vederli in fila ritornare per pagare il conto, e ci hanno tolto tutto quanto tranne i sogni, e non è mai per soldi, se sto fluttuando e non vi siete accorti. Volevo gli occhi a me come Tupac, perché voglio gli occhi a te quando nessuno te ne dà e qualcuno se ne va. Ero soltanto un ragazzino con gli occhi grandi come riflettori, e se ci penso mi manca il respiro, vado a farmi un giro fuori. Sta roba spinge, se conto almeno fino a tre, e arriva dritto in faccia come ha fatto a me. Quando era solo ieri mi bastava il rap, una riba, una c'è. La roba spigne, se adesso conto fino a tre, c'è la pubblicità che parlerà per me. Non era solo ieri, mi bastava il rap, una riba, una c'è. Vi chiedo l'ultima cosa, basta un tasto Insta per fare la storia? Sì. Qual è il vostro rapporto con i social? Perché ormai la musica viaggia tantissimo lì, e voi, essendovi presi una pausa, sì, siete rientrati in un mondo che da questo punto di vista era un po' cambiato. Sì, no, vabbè, ma noi sui social, su internet, devo dire che ci siamo sempre stati sul pezzo. Sì, avete fatto anche tutti i teaser prima del disco. Ma noi abbiamo iniziato a fare, pensa, anni fa, quando ancora non c'erano i social, noi facciamo un programma che è iniziato in radio solo sul web, dal nostro sito, poi è finito su un emittente, andava avanti così per 7-8 anni. Facciamo scaricare i dischi quando ancora non c'era gente che caricava sul digitale delle canzoni. No, per noi ovviamente è sempre importante vedere cosa c'è da cosa offre. E il discorso di Instagram a me piace tantissimo, perché riesce a fare veramente tutto quello che prima richiedeva tantissimo sforzo, riunioni, colloqui, e sempre questi algoritmi che tornavano, no? Magari dentro le case discografiche, che tu riesci a fare cose e diffonderle in una simultaneità quasi, no? Ma il problema che io racconto in quella parte là, no? Quella della strofa che hai citato tu, ora che basta un tasto Insta per fare la storia, perché non è riferito tanto agli artisti che fanno musica e utilizzano i social, è l'equivoco di fondo che siccome ci sono i social tu puoi fare la musica. Okay. Allora la puoi fare tranquillamente, io non sono nessuno per dirti di non farlo, ma lavora prima su te stesso, che è la cosa più bella di tutte, è la cosa che ti ripaga più di tutto quello che c'è, e ti salva anche dai lupi, no? Che ci sono nel mondo della musica come nella vita reale, dovunque, no? Il gatto, la volpe, tutte queste cose qua, cioè, ci sono, fanno parte del vissuto. È forte Grandi, eh? Grande, suona con me, sì, pensa, sì. Non te lo posso lasciare, non te lo posso lasciare, mi spiace. Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con i Corveleno. Ancora un saluto da Marta Cagnola.